Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Ci sono sempre io, Pietro. E Francesca. Ciao a tutti. Dunque, oggi proseguiamo col filone che abbiamo iniziato due puntate fa, relativo alla mala politica e quindi ai rapporti della politica con la mafia. In particolare parliamo di un fatto che è balzato agli onori della cronaca, anche se per la verità se non ha poi ricevuto l'eco mediatica che meritava, ovvero la desecretazione dei documenti relativi a della commissione ecomafia del 97, che appunto sono stati desecretati dopo ben 16 anni e hanno svelato le dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone. Quindi in realtà parliamo di un fatto che è accaduto appunto nel 97, quindi i calcoli sono di sono 13 anni fa? Più 16, complimenti per le abilità matematiche. Comunque, non dimentichiamoci di salutare il nostro tecnico. Ciao, sì. Che... Dunque, partiamo da chi era Carmine Schiavone, che è appunto al centro di questa audizione della Commissione Ecomafie. Carmine Schiavone è un pentito della Camorra, si è pentito, per meglio dire, dei Casalesi, si è pentito nel 93 e era uno, diciamo, dei big boss della Camorra. Era all'interno del consiglio amministrativo dei Casalesi e inoltre aveva questa simpatica parentela, cioè ha questa simpatica parentela con Francesco Schiavone, sì, detto Sandokan. Sandokan, insomma, faceva parte della cupola e appunto nel 97 era stato audito dalla commissione Ecomafie per parlare, insomma, della sua situazione, dei Casalesi, e in particolare per il discorso dei rifiuti tossici che venivano immagazzinati in campagna nel Basso Lazio a danno dei cittadini che scoprono solo oggi di aver avuto sotto i propri piedi una potenziale arma mortale. I motivi della secretazione non sono affatto chiari, sì. E soprattutto anche la desecretazione non è stata poi... Cioè non ha poi appunto dato comunque una motivazione della secretazione. Sì, ma infatti tra l'altro non c'è stata alcuna conferenza stampa dopo la declassificazione, non c'è stato spiegato niente di fatto, c'è solo la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che si è dichiarata molto felice di questa decisione, che è stata presa tra l'altro non a seguito di una richiesta da parte dei parlamentari o del governo, ma a seguito di una petizione pubblica lanciata su change.org che ha coinvolto migliaia di cittadini e che ha spinto appunto la Camera a desecretare questi documenti, che davvero non riusciamo a spiegarci il motivo per cui siano stati segretati. Insomma, le cose che vengono dette, poi ne parleremo meglio, sono gravissime. Cioè si parla appunto di dichiarazioni che di Carmine Schiavone, che appunto dopo aver spiegato come funzionava il sistema dei rifiuti ha dichiarato che sono davvero dannosi e mortali per la popolazione che ha vissuto in quei territori inconsapevole fino a questo momento, e addirittura dichiara: le persone moriranno entro 20 anni. Ma e fra l'altro, cioè, comunque non sono, appunto, visto che è mancata anche una conferenza stampa eccetera, non c'è dato nemmeno sapere bene come si muoverà adesso che è stata desegretata il governo o chi di competenza per andare a far fronte a questa piaga. Tra l'altro una breve chicca, insomma una curiosità: nel 97, all'epoca della secretazione, il ministro dell'interno era il nostro attuale presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che vabbè, insomma, ha chiesto la secretazione, sì. Sì, poi vabbè, non vogliamo prenderci una denuncia, quindi non lo insulteremo ancora, però di certo è che, insomma, è davvero inspiegabile questa cosa. E direi che interrompiamo un attimo per mandare, sì, una canzone. Mandiamo una canzone e poi ci addentriamo meglio nel discorso di ciò che ha detto Carmine Schiavone. Vi lasciamo per pochi minuti con We Love to Boogie dei T-Rex. Saturday night. Yeah. Nel 1988 ha in realtà origine la nostra storia, nel senso che è in questa data che Pasquale Pirolo e l'avvocato Borsa fanno una proposta ad Otranto a Carmine Schiavone, proposta che poi aprirà appunto ai casalesi tutto la prospettiva del traffico dei rifiuti, coinvolgendo non solo appunto criminalità organizzata ma anche parte della massoneria e anche cucendo una fitta rete non solo nazionale ma anche internazionale. Il traffico dei rifiuti ha portato nelle casse dei casalesi, cioè porta nelle casse dei casalesi almeno dai 7 ai 10 milioni di lire all'ettaro, dice Carmine Schiavone nelle sue dichiarazioni alla commissione Ecomafie. E ha come luoghi, cioè le discariche, i luoghi delle discariche abusive sono quelli di Casal di Principe, Castel Volturno, Capasanna. E tra l'altro dice che sempre in questa commissione, in questa audizione, dice che il mercato appunto dei rifiuti tossici, che si è rivelato oggettivamente molto produttivo per la camorra, l'avevano iniziato lui, suo cugino Sandokan e Francesco Bidognetti, e insieme a un certo Gaetano Cerci, che ritorna molte volte nell'audizione. E diceva che il coordinamento generale era curato dall'avvocato Chianese. E Cerci tra l'altro è stato, cioè mi sembra di aver capito che aveva dei forti collegamenti anche con il caro Licio Gelli, che anche lui torna spesso nella nostra storia italiana. Sì, diciamo che in molte storie italiane, anche in questa, gli intrecci tra massoneria, Stato e mafia sono molto labili. Tra l'altro rilevante il lapsus avuto da Carmine Schiavone nelle rivelazioni che fa alla commissione Ecomafia in uno scambio con il presidente. Sì, infatti dice, cito proprio dalla commissione, dice: questa situazione diventò subito operativa e cominciarono a versare soldi nelle casse dello Stato. Il presidente della commissione Ecomafia gli dice: vuole dire nelle casse del clan? E Schiavone dice: lo stesso più o meno. Allora il presidente si infervora un po'. Dice: perché dice che è lo stesso? E Schiavone dice: mi confondo, mi riferivo alle casse del clan. Era un clan di Stato. Il presidente dice: il vostro Stato. E Schiavone qua fa una dichiarazione che forse riassume bene la storia italiana. È abbastanza lapalissiana. Dice: l'altro, la mafia e la camorra non potevano esistere se non c'era lo Stato. Se le istituzioni non avessero voluto l'esistenza del clan, questo avrebbe potuto forse esistere? E a quel punto il presidente dice: su questo aspetto le rivolgeremo domande più puntuali. E qua chiude la... diciamo il breve siparietto. Fra l'altro l'organizzazione all'interno di queste zone che sono state adibite a discariche abusive era un'organizzazione di tipo militare, spiega Schiavone, cioè c'erano proprio dei soggetti che erano adibiti al controllo di queste zone con tanto di divisa militare, camionetta e palette eventuali. E tra l'altro Schiavone rivela che i casalesi, comunque, vabbè, una rivelazione che in realtà ad oggi sembra abbastanza appunto lapalissiana, mi ripeto, però il fatto che i casalesi avessero il pieno governo anche sulla politica locale, che senza questo pieno governo non avrebbero potuto quello che hanno potuto. Schiavone dice proprio che decidevano loro i sindaci del posto, decidevano loro il colore che i sindaci dovevano avere, e questo andando a prendere non solo partiti di destra, ma anche addirittura cita comunisti. Quindi proprio questa, noi italiani riusciamo sempre ad andare d'accordo su un unico punto, è quello sbagliato. Ma che bello. Ma tra l'altro questi rifiuti, appunto, stiamo parlando di rifiuti ospedalieri, industriali e anche rifiuti radioattivi, che soprattutto rifiuti radioattivi, che sono forse la cosa più dannosa per la popolazione, e rifiuti che venivano, diciamo, dal nord Italia e dall'Europa in generale, in dalla particolare Germania, la Germania. Per esempio. Ed è anche interessante, sempre seguendo le dichiarazioni di Schiavone, che ad esempio a un certo punto della commissione dice: sulla Domiziana, che era una strada campana, sono stati scaricati rifiuti di ogni genere nelle vasche in cui si era scavata sabbia per 30-40 metri. Infatti prima le cave venivano utilizzate per raccogliere la sabbia, che veniva poi usata per il cemento. E poi hanno detto: cosa ce ne facciamo di queste cave? Riutilizziamole scaricandoci dentro rifiuti. E un'altra parte molto interessante è il rapporto tra i casalesi e le discariche autorizzate, perché le discariche autorizzate collaboravano, e ad esempio cita la discarica di Frabì, e quindi il presidente chiede: ma voi quindi dovete pagare una quota ai gestori delle discariche autorizzate? E lui dice che invece erano le discariche autorizzate a pagare a loro, e si indigna anche per questa domanda. E quindi appunto si dice si spartivano il prezzo e li pagavano 500.000 lire a fusto, perché per distruggerli poi loro usavano un'attrezzatura speciale e ci volevano circa 2 milioni e mezzo. Quindi la ditta incassava 2 milioni e mezzo, mentre il clan incassava 500.000 lire a fusto. Quindi questa era, diciamo, la divisione dei proventi. Poi tra l'altro il presidente aggiunge: quanti riesce a farci una stima delle migliaia di tonnellate? E lui, Schiavone, dice: qui si parla di milioni, non si parla di migliaia. Ci sono 70-80 camion di quelli che smaltivano dal nord, fra i quali vi era appunto anche il suo camion. Si trattava di milioni e milioni di tonnellate. E lui dice che pensa che per bonificare la zona ci vorrebbero tutti i soldi dello Stato di un anno. E questa forse è la parte più inquietante, a mio avviso, perché poi ci si chiede: ma allora questi documenti che sono stati segretati, innanzitutto perché, e soprattutto a danno di chi? Anzi, lo sappiamo purtroppo, perché le persone che vivono là probabilmente avranno conseguenze sulla salute disastrose. Ma ritorna un po', secondo me, tutta la questione che riguarda i problemi italiani, che riguarda l'Ilva Taranto per esempio, cioè il solito rapporto tra economia e salute. Quindi quasi che i cittadini vengano messi di fronte all'idea: o hai un lavoro o ti va bene così com'è, o però in cambio devi rinunciare alla tua salute. E questa qua secondo me è la cosa più grave, perché di fatto lo Stato non, all'epoca in cui si potevano fare le bonifiche, quindi stiamo parlando di quasi 20 anni fa, non ha tirato agisce. Fuori i soldi, perché sostanzialmente adducendo la scusa del non abbiamo i soldi. Però forse per una situazione del genere di emergenza è necessario trovarli, così intensa, diciamo, è fondamentale trovarli, perché poi stiamo davvero parlando di danni che magari all'epoca non si vedevano ancora, ma adesso stanno mostrando i loro frutti. Insomma, sentire un pentito di mafia che dichiara tra 20 anni, sta parlando appunto del 97, le persone moriranno, certo, vabbè, non è un dato ovviamente scientifico, non è un medico, però insomma fa sempre, fortunatamente ne sapeva abbastanza, fa sempre grande impressione purtroppo. Bene, stemperiamo un po' gli animi e lanciamo un pezzo di Giorgio Gaber storico e che fa sempre sorridere, lo shampoo. Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì. L'acqua scroscia, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora. Soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa sacra, è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Fon. Rubrica, rubrica, rubrica buffie. Ecco, finalmente abbiamo un jingle alla nostra bellissima rubrica buffie. E questo jingle vi accompagnerà per tutto l'anno. L'ho appena inventato. Il tecnico approva molto bene. Vabbè, iniziamo il buffie e Ila, riprenditi. Dunque, iniziamo il buffie con un collegamento che mi sembra quasi ovvio in realtà rispetto alla puntata di oggi. E parlando di rifiuti, eccetera, mi è venuta subito in mente la città Leonida, la città rifiuti delle città invisibili. Leonida è una delle città che appunto Calvino inserisce all'interno delle città continue, la continuità di Leonida sta nella continuità del consumo di Leonida. Gli abitanti di Leonida si svegliano ogni mattina buttando via lo spazzolino nuovo, lo scaldabagno nuovo, le lenzuola nuove, tutto nuovo, e fuori dalle porte di Leonida ci sono i sacchi di plastica che rinchiudono la Leonida del giorno prima. E quello che prospetta, cioè quello, l'immagine di Calvino è una prospettiva sul futuro di una Leonida che sarà una Leonida in tutto il mondo. Sempre di più Leonida con i suoi sacchi di rifiuti andrà a spingersi più in là, oltre il crinale, dice Calvino, oltre le montagne di Leonida, e un giorno Leonida in effetti saranno tutte le città del mondo. Calvino, con naturalmente la sua leggerezza e capacità figurativa, rende in una sorta di profezia per il futuro. E, collegandoci un po' anche a questo, insomma, ci piaceva portare invece un esempio positivo di ciò che, insomma, per noi, di ciò che invece vuol dire bene comune e vuol dire un posto bello vissuto dalla popolazione senza lontano dall'idea consumista un po' che abbiamo della società di cui parlava Calvino in Leonida. E vogliamo parlare del Teatro Valle. Il Teatro Valle è un teatro di Roma settecentesco, un teatro bellissimo che invito tutti ad andare a visitare, anche perché è sempre aperto e sono disponibilissimi. Pietro è innamorato. Sono innamorato del teatro, sono andato una settimana fa e il teatro è occupato dal giugno del 2011, quindi da più di due anni, perché fondamentalmente l'ente del turismo che lo gestiva è stato dismesso dal governo nella logica dei tagli alla Tremonti, che appunto vedono nella cultura la prima cosa da tagliare, e quindi sarebbe stato, diciamo, un luogo morto, un luogo dove i cittadini non potevano più andare ad assistere alle opere teatrali. E invece dei cittadini, degli attori, personalità di vario genere si sono uniti e l'hanno occupato, e da allora il Teatro Valle è un luogo, diciamo, che incarna la logica del bene comune, che è una logica nuova nel panorama giuridico e anche nella mentalità delle persone, ma fondamentalmente vuole essere qualcosa di diverso sia dall'idea di bene pubblico che dall'idea di bene privato. E in realtà è una, cioè, è nuovo come concetto, come termine, ma in realtà è insito in teoria nel nostro DNA, DNA giuridico e anche culturale. Sì, perché appunto l'idea è che appunto questi spazi culturali e belli, proprio nel senso più bello della parola, siano di tutti e quindi devono essere gestiti con cura e compassione da tutti, secondo me è fondamentale anche per lo sviluppo etico di un popolo. Quindi no, se possiamo farvi anche una sorta di bacchettata e di lezioncina moralizzatrice, insomma, pensiamo alla nostra Piazza Verdi e vediamo che forse l'idea di bene comune che stiamo avendo noi studenti bolognesi non è proprio il massimo, e lo si vede ogni sera quando... Ma non solo Piazza Verdi, secondo me un po' rispetto a tutta la città stiamo scollandoci completamente. Insomma, cioè, noi siamo i primi a uscire a ubriacarci, Francesca in particolare, però insomma, ci poi alzarsi... Posso sentire queste puntate di mia madre? Ok, ottimo, salutiamo la signora. E però insomma, ogni volta che ci alziamo e vediamo lo schifo che c'è a terra, i cocci di vetro eccetera, insomma, le bottiglie parlano da sé, diciamo. Esattamente. Bene, vi lasciamo con una canzone di cui io non so il titolo perché l'hai decisa tu, Pietro. Ok, quindi la canzone è degli Al Jay, si chiama Breeze Blocks, e ci sentiamo alla prossima puntata. Sì, ascoltiamo alla prossima puntata. Ciao, ciao. You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffins go? They go along to take your honey. Break down our weed, build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle and toe to toe. The mirror's grim me, but here I go. My heart sings as I jump up. Soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go. I love you so, my lovely.